Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Due TV, due giornalisti, due candidati alla presidenza, raffiche di domande ieri sera per Biden e Trump che si sono sfidati a distanza. Ma chi ha vinto? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Presidential debate number two was scheduled for this evening, but instead we got two dueling town halls. Joe Biden on ABC, Donald Trump on NBC. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Keep yapping, man. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Anche come avete sentito dalla sigla, svelato il tema, ma anche il nostro cercare di essere ovviamente bipartisan. La puntata di oggi cercherà di raccontarvi e darvi conto del duello televisivo a distanza avvenuto poche ore fa. Da una parte Donald Trump incalzato da Savannah Guthrie di NBC, dall'altra parte eravamo sulla ABC da Philadelphia, Pennsylvania. Joe Biden, molto più serafico, che rispondeva alle domande di George Stephanopoulos. In mezzo ovviamente ci sono state anche una serie di domande di elettori selezionati, ma come è andata veramente e quanto avrà spostato questa ennesima prova televisiva dei due candidati? Questa è la domanda che ci poniamo in questa puntata e che pongo anche a voi, casomai aveste fatto la levataccia questa notte. La squadra di Nessun Luogo: Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Valeria Bernardi. Le coordinate 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Detto ciò, la prima cosa da fare è andare a sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta in Messico e la notizia è una notizia bomba, perché l'ex ministro della difesa messicano, il generale Salvador Cienfuegos Zepeda, è stato arrestato ieri notte al suo arrivo all'aeroporto di Los Angeles. Era atterrato insieme alla sua famiglia. L'arresto è stato condotto dalla DEA, l'agenzia antidroga degli Stati Uniti, scattato appunto nell'ambito di un'importante operazione antidroga. Il generale, secondo il New York Times, deve difendersi negli Stati Uniti da accuse pesantissime, riciclaggio di denaro e traffico, pensate, di stupefacenti. Zepeda, che è stato ministro della difesa dal 2012 al 2018, era il governo del presidente Peña Nieto, ha giocato un ruolo importantissimo, perché l'esercito, da ormai dal 2006 sostanzialmente, dalla guerra a tutto campo contro i narcos, ha giocato un ruolo, e lui come ministro della difesa, immaginate, giocava il ruolo di prim'ordine. Vi dicevo, dal 2006 viene schierato l'esercito soprattutto per la lotta contro i cartelli in alcuni stati del Messico particolarmente colpiti, particolarmente nevralgici. Il risultato purtroppo nel corso degli anni è stato che non soltanto alcune figure preminenti politiche hanno avuto collusioni col mondo dei narcos, ma anche gli stessi Marines messicani e nonché la polizia. Staremo a vedere che cosa porterà questo arresto, quali saranno poi soprattutto i risvolti giudiziari, perché se parlando Zepeda volesse o dovesse aprire il vaso di Pandora, ne vedremo delle belle. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, non avevo dubbi, peraltro vince Giacomo, che si firma sempre con Giacomo, agricoltore bergamasco, che mi irride perché scrive lei bipartisan con una sonora risata. Ci proveremo, gentile ascoltatore. Intanto però fatemi andare in Nigeria, vi ricordate abbiamo raccontato con dovizie di particolari e con voce in diretta dall'aeroporto di Lagos di quelle proteste, nate per cosa? Per l'hashtag di tendenza in Nigeria era End SARS, niente a che vedere con la pandemia, piuttosto con questa squadra anticrimine della polizia nigeriana, antirapina per l'esattezza, che si era macchiata di parecchi crimini nel corso degli anni. Lo avevano denunciato i cittadini, lo aveva denunciato anche una serie di organizzazioni che lottano appunto per i diritti umani. Secondo quanto riporta BBC Africa, vi saranno una serie di inchieste speciali in tutti i 36 stati che compongono appunto lo Stato federale della Nigeria. Indagheranno non soltanto sugli eventuali reati commessi dalla squadra SARS, ma anche dalle repressioni sulla folla, scusate, durante questi giorni di protesta. Proprio ieri o l'altro ieri vi davamo conto del fatto che era stata data notizia di spari della polizia proprio a Lagos sulla folla che manifestava pacificamente. E poi un'operazione importantissima che segna sicuramente una pietra miliare non soltanto nel lunghissimo conflitto in Yemen, ma se volete anche proprio nella storia della diplomazia e del quello che gli esperti potrebbero chiamare conflict solving. Diversi aerei a bordo con centinaia di persone sono decollati oggi per il secondo giorno consecutivo in Yemen. Il governo ufficiale, sostenuto dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi, hanno raggiunto un accordo per lo scambio di prigionieri. L'accordo, raggiunto la settimana scorsa in Svizzera, comprende, pensate, un totale di 1081 prigionieri di entrambe le parti, forse il tentativo, lo sforzo diplomatico più ampio mai tentato in un settore, in un quadrante così duro. Oltre 5 anni di guerra civile nel paese che ormai è allo stremo. E per la cronaca è stato il comitato della Croce Rossa Internazionale ad avviare proprio questa gigantesca operazione. E poi in Thailandia, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, in particolare ieri proseguono a Bangkok le proteste contro il governo thailandese ma anche la casa reale di Re Rama X. Centinaia di poliziotti thailandesi in assetto antisommossa hanno adoperato gli idranti per disperdere ancora una volta la folla che sta resistendo issando barricate. Le proteste, lo ricordiamo, erano iniziate dapprima virtualmente, online, e poi invece si erano trasformate in vere e proprie proteste di piazza nei giorni scorsi. I manifestanti chiedono una riforma della monarchia in senso più liberale, le dimissioni del governo. Ieri 20 tra i principali leader delle proteste erano stati arrestati. Se volete ripercorrere e comprendere meglio quella che è anche l'anima, se volete, culturale di questa protesta, sul sito di Radio 24 c'è il podcast della lunga intervista, la chiacchierata che abbiamo fatto con Massimo Morello, giornalista del Foglio, esperto di Thailandia, proprio ieri. E poi, visto che parleremo di dibattiti televisivi, di scontri elettorali, di candidati alla presidenza, si è da poco chiuso, dobbiamo andare dall'altra parte del mondo, letteralmente agli antipodi, in Nuova Zelanda, l'ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni che domani chiameranno alle urne 3,5 milioni di neozelandesi. In lizza c'è il nuovo primo ministro, il premier, o meglio dovrei dire la premier, visto che le candidate sono due, e il nuovo parlamento. Jacinda Ardern, che è il primo ministro in carica, partito laburista, dovrebbe, secondo i sondaggi, essere in vantaggio di 15 punti rispetto alla rivale Judith Collins dello schieramento di centrodestra National Party. Le elezioni, lo ricordiamo, si dovevano tenere a settembre, erano state rimandate a causa dell'epidemia del Covid-19. Un'epidemia, una pandemia che la Nuova Zelanda, in particolare il governo dell'Arden, ha gestito evidentemente con grande efficacia. E ricordo semplicemente la differenza di toni, abbiamo provato ad appaiare proprio in una scorsa puntata di Nessun Luogo Lontano il clima differente del dibattito presidenziale, quello neozelandese e quello statunitense. Infine, l'ultima notizia che ha catturato la nostra attenzione arriva dalla Francia. E l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato incriminato per la quarta volta nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri erogati dalla Libia. Era la campagna elettorale del 2007. Grazie a questi fondi Sarkozy avrebbe appunto messo in moto la sua macchina elettorale. La nuova incriminazione è stata svelata dal sito di inchiesta francese Mediapart e confermata da fonti giudiziarie. Secondo l'accusa, Sarkozy avrebbe ricevuto fondi direttamente dall'ex presidente libico Muammar Gheddafi. Nella sua ultima deposizione, era giugno del 2019, Sarkozy si era dichiarato innocente, anzi aveva detto che era vittima di un complotto. Sembra davvero che i fantasmi anche recenti della Libia continuino ad aleggiare non soltanto in Nord Africa, ma anche in Europa. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, che diventeranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però, con Valeria Bernardi, sapete cosa facciamo? Accendiamo la televisione. Se indossassimo questa maschera, potremmo salvare molte più vite di quante ne potremmo salvare col vaccino. I knew it was a big threat. Sapevo della portata del problema. At the same time, I don't want to panic this country. Ma allo stesso tempo, non volevo gettare questo paese nel panico. I pointed out that I thought in February, era febbraio. Ho provato a far capire che il problema era davvero grave. Trump denied it. He said it wasn't. Ma Trump continuava a dire che non era così. I'm president. Ehi, sono il presidente. I have to see people. Devo vedere le persone. I can't be in a basement. I can't be in a room. Non posso isolarmi in un seminterrato o in una stanza. The new Green Deal calls for elimination. Un nuovo Green Deal imporrebbe di eliminare le risorse energetiche non rinnovabili per il 2030. Ma non si può fare. C'è bisogno di un periodo di transizione. Loro sono contro la pedofilia. E quello che posso dire è che sono d'accordo. Gli schiavi arrivarono qui 400 anni fa e, che dire, siamo tutti immigrati. Siamo l'unione di paesi diversi. Dovremmo trattare tutti equamente. Voglio delle elezioni oneste, come tutti. E quando vedo nella spazzatura migliaia di schede con il mio nome sopra, non sono per niente contento. Nel mondo siamo più isolati di prima. Il motto "prima l'America" ci ha portato a ritrovarci soli. Così Valeria Bernardi e Valentina Ternullo in 90 secondi hanno riassunto la lunga notte televisiva di ieri, che ha posto gli statunitensi davanti a un dilemma, perché dovevano sintonizzarsi o sulla NBC o sulla ABC, dovevano gustarsi un Trump sicuramente in buona forma, incalzato però da Savannah Guthrie, che è una anchor woman molto popolare, conduce il talk show Today appunto ogni giorno, dall'altra parte ABC. Il tutto un po' meno scoppiettante, devo dirlo, da una parte perché c'era Joe Biden, che non è, come dire, particolarmente frizzante in questa campagna elettorale, e lo stesso giornalista televisivo George Stephanopoulos non ha forse brillato per carisma. In mezzo però c'era una serie di elettori selezionati che hanno fatto una serie di domande, e in qualche modo in questi 90 secondi avete potuto ascoltare come siano stati toccati, a volte accarezzati semplicemente, molti dei temi ritenuti più importanti dagli statunitensi in vista del 3 novembre. Tra poco andrà ai vostri messaggi al 349-238-6666. Fatemi prima dare il buongiorno e ben ritrovato, nessun luogo lontano, a Francesco Costa, vice direttore del Post, che da anni ormai segue con grande attenzione le vicende statunitensi. Francesco, buongiorno e ben ritrovato, nessun luogo lontano. Buongiorno e grazie dell'invito. Francesca, intanto sono certo che sei rimasto in piedi stanotte. La domanda però che mi faccio e ti faccio: quale hai visto in diretta dei due? Ho visto quello di Trump e non solo perché, diciamo, è più facile restare svegli, evidentemente, Trump è più scoppiettante, ma anche perché Trump, essendo il candidato in svantaggio, era quello che doveva farsi notare e far sì che questa intervista diventasse in qualche modo potenzialmente una piccola svolta della campagna elettorale, mentre Biden, essendo in vantaggio, voleva semplicemente passare la lista e non fare guai, non fare errori. Sì. Chi, poi immagino che l'indomani mattina o subito dopo ti sei andato a rivedere, fra l'altro sul sito di ABC è anche molto bella la presentazione dell'intervista, perché è già spillolata, no? Tema per tema c'è la domanda e la risposta, è anche facilmente godibile, si può selezionare i temi di maggior interesse per noi osservatori. Chi ti ha convinto di più, Francesco Costa? Beh, guarda, devo dire che, diciamo, Biden ha fatto quello che doveva fare e Trump no. Al di là di chi ha convinto di più me, io ho visto Biden cavarsela anche con le domande un po' più spinose, anche quando parlava del Green New Deal in una delle risposte che voi avete fatto ascoltare. Sì. È stato molto più sciolto anche rispetto al confronto con Trump di qualche settimana fa, molto più con un'aria da vecchio saggio, diciamo, che sta cercando di utilizzare proprio per presentare la sua candidatura come una candidatura di normalizzazione, di guarigione del paese. Trump doveva inventarsi qualcosa, comunque doveva far sì che questa intervista attirasse delle attenzioni positive su di lui, ma complice anche la moderazione intensa da parte di Savannah Guthrie, come citavate, e complice il suo essere Trump. Tutto sommato Trump non è mai cambiato, invece ha dato una serie di risposte, diciamo, sicuramente discutibili, per esempio dopo, insomma, non ha voluto dissociarsi dalla teoria del complotto, che è anche una minaccia per la sicurezza nazionale, di QAnon, che è una roba veramente da fuori di testa, e in generale comunque anche sulla pandemia sta cercando di riscrivere la storia senza riuscirci. Mi sembra che insomma, nelle reazioni anche successive da parte di opinionisti anche di ogni area, ecco, questa non è stata giudicata come un'intervista che abbia cambiato la campagna elettorale di Trump e la sua traiettoria. State ascoltando La Voce, l'analisi, il commento di Francesco Costa, vice direttore del Post, che come tanti questa notte si è imposto una levataccia. Molti hanno preferito appunto sintonizzarsi su NBC perché certi di godersi uno spettacolo anche non dico di intrattenimento, per carità, però sicuramente confezionato, complice sia la moderatrice Savannah Guthrie di NBC, sia lo stesso presidente in carica Donald Trump, sicuramente di maggiore appeal. 349-238-6666, che domande hanno fatto a Biden? Scomode, si chiede un ascoltatore. Gli hanno chiesto dello scandalo di Hillary, chiedo scusa, ma su via, è troppo facile così, così scrive tra gli altri Daniele da Viareggio. Peraltro sul ruolo, Francesco, che è stato svolto da Savannah Guthrie, che è diventata una sorta di, almeno qualche ora, eroina, baluardo per i Dem evidentemente, si è scagliato anche Tim Murtagh del staff della Casa Bianca, perché ha accusato sostanzialmente la moderatrice di aver incalzato come nessuno, e anche su Twitter, sui social, circolava questa domanda: ma nessuno mai ha messo Biden alle strette così come Donald Trump viene messo alle strette? C'è qualcosa che non funziona nel panorama mediatico statunitense? Trovi un accanimento in particolare contro il presidente Trump? Dunque, qualcosa che non funziona sicuramente sì, c'è. Trump è il presidente degli Stati Uniti, e che incontri sulla sua strada degli intervistatori che sanno fare la seconda domanda, o che quando Trump dice una bugia, e Trump lo fa molto spesso, ma lo interrompono e lo fanno notare, è assolutamente nelle cose. Anzi, insomma, se Trump nella scorsa campagna elettorale usufruì di una copertura mediatica molto generosa anche dai network che lui oggi ama detestare, come per esempio la CNN, che pur di tirare sugli ascolti gli diedero grandissimo spazio. Stavolta il presidente, le cose sono cambiate. Io non credo che il trattamento di Trump sia ingiusto. È vero però che Biden ha evitato accuratamente gli intervistatori più aggressivi. Chris Wallace, il giornalista di Fox News, che ha messo anche in una certa difficoltà Donald Trump, ha chiesto più volte a Biden un'intervista, e Biden, essendo in vantaggio, non volendo rischiare, non volendo fare passi falsi, sa che un'intervista intensa potrebbe metterlo in difficoltà, e lui fin qui le ha evitate tutte, questo è vero. È anche vero una cosa, Francesco Costa, sono certo che concorderai con me, in questo esatto momento nella storia politica, ma non solo statunitense, si intrecciano anche le carriere dei giornalisti, perché un Chris Wallace che riuscisse a mettere alle strette anche Biden in un confronto televisivo acquisirebbe probabilmente una ulteriore statura professionale, anche ulteriormente spendibile per la propria carriera. Quindi immaginate che oltre alle macchine dei due candidati si muova anche la macchina mediatica, anche con molta molta attenzione, con un fervore forse per noi assolutamente inimmaginabile. 349-238-6666. Vabbè, ci sono una serie di messaggi, ve ne darò conto tra pochissimo, sperando che non sconfinino in quelle che sono le teorie complottistiche di QAnon. Ne facevi cenno appena adesso tu, Francesco Costa. Io credo che il tema QAnon sia stato quello più, forse più sdrucciolevole ieri nel dibattito per Donald Trump, perché la Guthrie l'ha incalzato più di una volta, e Donald Trump, invece di rispondere su QAnon, ha detto: non li conosco, quello che so però è che sono contro la pedofilia, che mi sembra una, come dire, una banalità incredibile, no? Chi è che pubblicamente è per la pedofilia? Ma detto ciò, tirava in ballo gli antifa, quindi cercava assolutamente di sviare. Lì l'ho trovato un po' in imbarazzo. Però in generale Joe Biden è stato assolutamente spento, questo bisogna dirlo, senza grinta. Tu dici una strategia, vuole essere anche più rassicurante dell'eccentrico, del frizzante presidente in carica, però io ho la sensazione che non conquisti i cuori. Guarda, sai, da un certo punto di vista c'era un editoriale sul Financial Times qualche tempo fa che diceva il fatto che gli elettori del Partito Democratico non siano degli ultras di Joe Biden, non siano lì a strapparsi le magliette per lui, è un fatto sano nella nostra democrazia, ed è anzi, diciamo, più pericoloso quando vediamo politici circondati da un pubblico, un elettorato che in modo del tutto incondizionato gli rivolge, diciamo, stima, fiducia, a prescindere dal contenuto. Il rapporto dialettico, diciamo, che Biden ha è meno passionale con l'elettorato democratico, per alcuni è anche un punto positivo. In parte poi, naturalmente, in una campagna elettorale è anche una debolezza, non c'è dubbio. Le campagne elettorali sono fatte di energia, sono fatte di entusiasmo. Credo che fin qui Biden non abbia pagato troppo questo suo limite, almeno a giudicare da quello che dicono i sondaggi, poi lo vedremo naturalmente il 3 novembre, perché la presidenza Trump e lo spauracchio di una sua rielezione per la base del Partito Democratico, anche quella che non è entusiasta di Biden, però rappresenta già una motivazione eccezionale per andare a votare. E quindi che il candidato in sé non sia entusiasmante, se nel 2016 con Hillary Clinton aveva effettivamente costato dei voti ai democratici, sì, anche perché molti pensavano: ma figurati, Trump non vincerà mai, perché devo votare una che non mi piace? Certo. Ecco, stavolta è una prospettiva realistica quella della vittoria di Trump, e quindi anche chi non è entusiasta di Biden si fa venire l'entusiasmo in un altro modo, ecco, nel Partito, sì, Democratico. Sì, sì. È interessante l'analisi che fa Francesco Costa di questa indole, di questa attitudine che Joe Biden, forse non dobbiamo dire sta sfoderando, perché lui è fatto veramente così. Poi il riso e deriso dal suo contendente Sleepy Joe, l'addormentato. Ti faccio sentire, Francesco Costa, una voce e un osservatore che è particolarmente interessante da ascoltare. Si chiama Woodrow Johnson ed è lo stratega repubblicano della società McShane LLC di Las Vegas in Nevada. Johnson cura la campagna repubblicana proprio nello stato del Nevada e il candidato repubblicano Jim Marchant. Lo ha raggiunto Antonio Taglia, perché sapete che stiamo facendo questo viaggio in questi giorni qui a Nessun Luogo Lontano, cercando voci, strateghi, consulenti politici che stanno in qualche modo lavorando, almeno se non direttamente ai due candidati presidenti, ai due diversi schieramenti. Quindi siamo nel schieramento repubblicano. Johnson è un giovane consulente. A lui Antonio Taglia ha chiesto quale sarà l'impatto sulla campagna della ripresa del presidente Trump dal Covid-19, perché dobbiamo ammetterlo, ieri era in ottima, ottima forma. Sentite Johnston. Beh, prima di tutto penso che i sostenitori del presidente Trump siano sollevati dalla ripresa del presidente. È esattamente quello che ci voleva a favore di Trump. Aveva bisogno di rimettersi dalla malattia velocemente. Ovviamente una guarigione lenta avrebbe avuto un impatto notevole anche sulla politica reale. Ma adesso la fiducia verso Trump aumenterà ancora di più. Il presidente e i suoi sostenitori hanno ottenuto precisamente ciò di cui avevano bisogno in questo momento. E probabilmente gli indecisi adesso penseranno: guarda, anche il presidente si è ammalato, ma se è riuscito a gestire il virus così bene per sé, allora è anche l'uomo giusto per risolvere la situazione. Questa guarigione fa bene alla campagna elettorale. I think actually bodes well for him coming into the election. La voce dello stratega repubblicano Woodrow Johnston sta lavorando in Nevada, che ricordiamolo è uno degli swinging state, quegli stati in bilico che tanto contano in vista del 3 novembre. Sta lavorando, dicevo, per il candidato repubblicano Jim Marchant. Ancora una volta ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, ma continuiamo a parlare del duello televisivo a distanza avvenuto poche ore fa tra Joe Biden e Donald Trump, NBC, ABC, Savannah Guthrie, George Stephanopoulos e poi un po' di elettori scelti che hanno provato a mettere alle corde i due candidati alla presidenza. In più, oltre a Francesco Costa, vice direttore del Post, che ci sta aiutando a analizzare proprio i due eventi televisivi di ieri, stiamo puntellando questa puntata di Nessun Luogo Lontano con la voce di Woodrow Johnston, che è uno stratega repubblicano che sta lavorando in Nevada per il suo candidato al Senato. Nevada, che è proprio uno stato importantissimo, uno swing state. Nell'audio che vi ho fatto ascoltare di Johnston, dava la notizia della ripresa così veloce del presidente dal Covid-19 come un'ottima spinta, un'ottima molla per la campagna elettorale. Un ascoltatore in realtà scrive: Trump sarà guarito in fretta, ma esporre la presidenza e staff al contagio azzoppando il centro nevralgico di una superpotenza resta molto grave, molto pericoloso, ed è uno degli aspetti proprio della sicurezza nazionale che avevamo sottolineato. Torno da Francesco Costa, ma prima, Francesco, ti faccio sentire quel brevissimo passaggio di Biden, almeno quello iniziale, sulla politica estera statunitense. Sentiamo insieme. We're more isolated in the world than we've ever been. Our allies are Qui veniva chiesto un giudizio su quella che è stata la politica estera di Donald Trump e Biden dice: attenzione, perché gli Stati Uniti non sono mai stati isolati come in questo momento, sia nell'ambito della NATO, all'interno delle quali vi sono parecchi mal di pancia evidentemente, ma anche nei rapporti con la Cina, con la Corea del Nord, eccetera, eccetera. Francesco Costa, quanto secondo te la politica estera statunitense è importante per l'elettore americano? Detta in altri termini, quanto sono ombelicali gli americani quando è ora di scegliere il presidente e quanto invece pensano in maniera globale, secondo te? Beh, sono ombelicali un po' come tutti gli elettorati, diciamo. Importa della politica estera soltanto quando diventa politica interna, cioè quando ha delle ricadute interne, come era stato per esempio 20 anni fa rispetto alla lotta al terrorismo e allora alla politica estera di Medio Oriente. Come è stato per esempio durante la campagna del 2016 rispetto ai trattati commerciali e agli accordi commerciali con l'estero, soprattutto con la Cina, oppure ai rapporti con i paesi dell'America centrale rispetto all'immigrazione. Però ecco, la politica estera è abbastanza assente da questa campagna elettorale, anche nelle sue parti che insomma sono comunque molto attuali, non solo rispetto alla posizione degli Stati Uniti nel mondo e al rapporto con gli alleati, ma per esempio anche al rapporto con la Cina. Alla fine dello scorso anno ce ne siamo dimenticati, ma gli Stati Uniti e la Cina firmarono un primo accordo preliminare per mettere fine alla guerra commerciale. Poi è arrivata la pandemia e non se ne è più parlato, ma ecco, Stati Uniti e Cina anche prima della pandemia avevano molte cose importanti da sbrogliare e da discutere, che hanno delle ricadute dirette sugli agricoltori e sulle fabbriche americane. Ecco, questi temi oggi sono comunque abbastanza in secondo piano, perché il tema sanitario ed economico, in conseguenza del quadro sanitario, che ha preso tutto lo spazio possibile della campagna elettorale. E come forse era doveroso, visto l'emergenza nella quale versano gli Stati Uniti. Intanto, Francesco, dopo questa domanda ti lascio andare al tuo lavoro, naturalmente nel ringraziarti di aver analizzato in maniera così dettagliata quello che è stato l'evento televisivo di ieri. Tegola su Biden, perché le autorità federali indagheranno sulle presunte email del figlio Hunter che furono svelate dal New York Post, il tabloid di New York. Lo ha riporta la NBC. Gli investigatori andranno a esaminare se quelle mail sono legate a un'operazione di intelligence straniera. Allora, questo potrebbe spostare, Francesco Costa, allora il New York Post non ha, diciamo, non è che brilli per autorevolezza nel panorama mediatico statunitense, non ha niente a che vedere con il New York Times e nemmeno col Post, ecco, giusto per diciamo, unisce i due nomi, però insomma è un tabloid, ecco, tanto che addirittura Twitter aveva bannato alcuni dei contenuti appunto svelati dal New York Post. Questa potrebbe essere una bella arma in mano ai repubblicani. Naturalmente sì, e sicuramente proveranno a sfruttarla, però appunto, come ricordavi, questa notizia è una fonte particolarmente inaffidabile, e anche la ricostruzione di dove vengono queste email presunte è un computer che qualcuno avrebbe portato a riparare e mai ritirato, e questo proprietario del negozio avrebbe deciso di guardare dentro questo computer, guardare i dati, scoprire che fosse di uno dei figli di Biden, Hunter Biden, e consegnarlo a chi? A Rudy Giuliani, tra tutti, diciamo, che non c'entra molto col Delaware. Rudy Giuliani è tra l'altro stato già attenzionato dall'FBI alla Casa Bianca rispetto al fatto che sia considerato un asset da parte dell'intelligence russa. Naturalmente l'inchiesta può fare chiarezza, e allora magari può far venire fuori che questi elementi, o tutti o in parte, su Hunter Biden sono fondati, e in quel caso sarebbe sicuramente un gran guaio per Biden e per la sua campagna elettorale. Oppure potrebbe far venire fuori un tentativo di manipolazione del dibattito elettorale da parte di potenze straniere con la collaborazione di alcuni alleati di Trump, e quello sarebbe evidentemente un guaio per Trump. Credo che l'indagine comunque però faccia più in favore a Trump che a Biden, visto che mantiene questa notizia attuale al posto, per esempio, della gestione della pandemia. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Il caso, il dossier su Hunter potrebbe essere davvero uno dei punti di svolta, solo che il tempo stringe, quindi a questo punto, se i giornalisti vorranno scavare, dovranno farlo in tempi molto molto rapidi. Così come rapidamente ringrazio Francesco Costa, vice direttore del Post, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, Francesco, e alla prossima. A voi, a presto. 349-238-6666. Io ricordo ai pochi ascoltatori che si abbandonano con tanto piacere al vituperio, che non avranno la soddisfazione di veder letti, di ascoltare letti i propri messaggi. O ripulite il messaggio o assolutamente non verrete presi in considerazione. Un altro ascoltatore invece: al di là dell'esito dei dibattiti, la presidenza Trump sta ponendo in modo inconfutabile il vero nodo della politica americana. Il gigante economico e tecnologico ha in realtà i piedi d'argilla, si chiede l'ascoltatore. Le sue istituzioni politiche politiche giudiziarie ci appaiono anacronistiche, non in grado di garantire reale democrazia e facilmente manipolabili dall'esterno e dall'interno. Così un ascoltatore che pone in realtà un tema che è posto anche dalla prestigiosa rivista Foreign Policy. Così io rispondo anche a un ascoltatore che mi ride perché ho definito poco autorevole il New York Post e lui dice: il New York Times invece sì. Gentile ascoltatore, sì, sì, c'è una bella differenza e non è solo Times e Post, eh. Vi stavo raccontando di questo articolo che stavo leggendo su Foreign Policy, che ho trovato estremamente interessante, perché sostanzialmente dice: attenzione, ed è un messaggio quasi al Dipartimento di Stato e alle agenzie di sicurezza americane, state da tempo sottovalutando quella che è la vera minaccia in questi anni per gli Stati Uniti, cioè la guerra di disinformazione che i due grandi nemici stanno compiendo oramai da tempo, che sono Mosca e sono Pechino. E sostanzialmente l'editorialista di Foreign Policy invita la struttura di sicurezza statunitense a dotarsi di un vero e proprio dipartimento di controinformazione per andare a cercare di lenire gli effetti negativi di quella macchina gigantesca che sia Pechino che Mosca in maniera molto diversa riescono a mettere in campo e come già avvenuto potrebbero andare a impattare proprio su queste elezioni. 349-238-6666 per voi. Fatemi però tornare in Nevada, è uno swinging state, è molto importante, anche qui si gioca tantissimo da qui al 3 novembre. Ci andiamo con la voce di Woodrow Johnston, stratega repubblicano. Lavora per una società che si chiama McShane LLC di Las Vegas e sta seguendo la campagna per un candidato repubblicano al Senato, Jim Marchant. Che cosa ne pensa a proposito di interventi anche a gamba tesa dei social network, per esempio, contro i quali Trump si è spesso scagliato? Cosa ne pensa della sospensione dell'account Twitter proprio della campagna repubblicana di Trump? Sentite Woodrow Johnston. I think blocking the Trump campaign, Trump's communications director. Penso che bloccare l'account della campagna di Trump, l'account guidato dal direttore della comunicazione di Trump, in realtà si stia ritorcendo contro la loro stessa causa. Dico la loro causa perché è molto chiaro da quale parte siano schierati i giganti dei social media e i media in generale. Se proprio questo blocco avrà un effetto, secondo me consisterà nel rinforzare ulteriormente la base del presidente Trump. E allo stesso tempo penso che se quello che viene diffuso dagli account ufficiali è davvero così terribile, per loro sarebbe meglio lasciare che venga comunicato invece di bloccarlo. Insomma, penso che azioni come questa danneggino davvero la campagna democratica e le possibilità dei democratici di vincere. So I think this really ultimately will hurt the Democrats' chances, things like this. Questa è la voce dello stratega repubblicano, consulente politico Woodrow Johnston. Ve l'abbiamo promesso, in questi giorni staremo cercando di analizzare veramente nel dettaglio, in profondità e con chi fa quelle campagne, appunto le presidenziali, sia democratiche che repubblicane. Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, a poche ore dall'ultimo dibattito a distanza tra i due contendenti, testa a testa ma non faccia a faccia, NBC, ABC, due network scelti, Savannah Guthrie appunto del prima, George Stephanopoulos della seconda e una serie di elettori scelti che hanno provato a incalzare in alcuni casi più dei moderatori i due candidati alla presidenza. Un po' di messaggi al 349-238-6666 prima di tornare all'interessante voce di Woodrow Johnston, un stratega, un consulente politico che lavora per i repubblicani e in questo momento sta cercando di far pendere l'ago della bilancia in Nevada proprio per i repubblicani stessi. Luca, che scrive da Piacenza: Biden non è all'altezza di guidare gli Stati Uniti, vero, ma di fronte a un Trump impresentabile quale potrebbe essere l'alternativa? Trump sta facendo tutto da solo. Se Biden vincerà le elezioni non sarà merito suo, ma sarà solo per colpa di Trump. Qualcun altro scrive: ma con Biden come potrebbe cambiare la politica estera? E si chiede soprattutto: è il Medio Oriente, quei due accordi, uno rivolto ai palestinesi, l'altro, l'ultimo, l'accordo di Abramo con gli altri paesi arabi, Emirati e Bahrain su tutti, che hanno normalizzato i rapporti con Israele, sono certamente delle medaglie che Donald Trump si è messo al petto. Biden soporifero, Trump scoppiettante, e c'è qualcun altro che fa un paragone con la politica italiana, ma su questo non vorrei entrare. Qualcun altro si chiede: ma perché giudicare la bontà di un dibattito da quanto è frizzante il candidato alla presidenza? Beh, perché, gentile ascoltatore, la politica è fatta anche di questo, no? Di maestria nel sedurre gli animi, nel irretire i cervelli, è un'arte, non c'è dubbio. E su questa non vi è dubbio che sulla comunicatività di Donald Trump e quella di Biden vi sia un abisso. Questa non è un'opinione, è un fatto. Allora, torniamo nell'importante stato del Nevada, che è uno swinging state, cioè è uno stato che non ha una forte tradizione né in un senso né nell'altro. Potrebbe quindi essere assegnato ai democratici oppure ai repubblicani. Come sta andando la campagna in Nevada ce lo racconta chi la sta curando, che è Woodrow Johnston. Dunque, bisogna ricordare una cosa. Nel 2016 il presidente Trump ha perso il Nevada solamente per 2 punti. Il Nevada correva con il cosiddetto disunified ticket, ossia con i candidati repubblicani al Senato e al Congresso per lo Stato del Nevada che non sostenevano Trump. E nonostante questo, Trump nel 2016 ha comunque ottenuto un buon risultato. Adesso, con il Partito Repubblicano davvero unito per il presidente Trump, penso che siamo in una buona posizione per vincere in uno stato come il Nevada, che viene spesso definito un bellwether state, ossia uno stato capace di indicare quale sarà la tendenza a livello nazionale. Insomma, sono cautamente ottimista sulla vittoria di Trump in Nevada. Allora, continuiamo a stare in Nevada, perché potrebbe essere un ottimo termometro, un ottimo caso di scuola sul quale puoi provare ad amplificare, dal quale puoi amplificare i temi che vengono trattati. Sempre Woodrow Johnston ci spiega quali sono i temi principali della campagna e quali sono soprattutto quelli che possono spostare i voti. Sentite, perché questa risposta è molto molto interessante. Ciò che preoccupa di più gli elettori in questo momento è la pubblica sicurezza. Stiamo assistendo da parte delle frange più radicali dei democratici e anche da parte di democratici che prima non lo erano, ma che si sono radicalizzati, ad una spinta per tagliare i fondi alla polizia e per disarmarla. Penso che anche molti elettori che normalmente voterebbero per i democratici non vogliano una cosa del genere, e di sicuro nessun singolo elettore repubblicano, così come molti elettori indecisi o indipendenti, vuole disarmare la polizia o tagliare i fondi alle forze dell'ordine. Al momento è questo il nostro messaggio principale, e stiamo vedendo che molte organizzazioni che tradizionalmente sostengono i democratici, penso per esempio a certi sindacati di polizia, si stanno radunando invece intorno ai candidati repubblicani, incluso il presidente. Oppure stanno sostenendo ticket democratici repubblicani. Con la voce di Woodrow Johnston stiamo quasi effettuando l'anatomia di una campagna elettorale, perché dalle sue parole, stratega repubblicano, sta lavorando in Nevada per Jim Marchant, candidato al Senato, si evince anche su quali temi si provi a puntare, a cercare di, come dicevo prima, a sedurre e conquistare i cuori e menti dei cittadini statunitensi, che quelli che ancora devono votare, 18 milioni hanno già votato, lo diceva molto chiaramente la CNN proprio pochi minuti fa in apertura dei programmi mattino. 349-238-6666 invece per i vostri commenti e le vostre domande. C'è qualcuno che giustamente e continuamente ricorda, attenzione ai sondaggi, perché l'imprevedibilità delle urne invece può regalare delle sorprese, come fu nel 2016. Ecco, abbiamo provato a fare un gioco con Woodrow Johnston, stratega repubblicano. Antonio Italia gli ha chiesto di mettere i panni, di fare carriera in pochi secondi, perché dallo stratega per Jim Marchant, per noi un anonimo candidato al Senato, a diventare lo stratega per Donald Trump. Cosa gli suggerirebbe per le prossime settimane? Sentite. Let's get a debate on Joe Rogan. Impostiamo un dibattito moderato da Joe Rogan, il podcaster democratico che sosteneva Bernie Sanders e che ora sostiene Trump, perché ritiene che a 78 anni Joe Biden non sia in grado di sostenere una presidenza e sospetta che stia facendo uso di droghe. In generale, credo che il presidente e la sua squadra stiano facendo un lavoro incredibile qui in Nevada, e anche a livello nazionale stiamo assistendo riuscendo ad un contatto con gli elettori che non avevamo mai visto prima. Sfortunatamente per loro, invece, Biden e i democratici non riescono a tenere il passo. I volontari e gli addetti alla campagna di Biden non bussano porta per porta agli elettori, si limitano a fare telefonate. Sinceramente, se dovessi indicare una sola ragione per la quale Biden non sta facendo bene, per me è proprio questa. Beh, senza dubbio a Woodrow Johnson non mancano le idee, a volte molto chiare, a volte particolarmente irriverenti. C'è anche qualche ascoltatore che gli risponde a tono al 349-238-6666. Trovo però interessante, e ci dà ancora una volta la dimensione della complessità nel gestire una campagna presidenziale statunitense. Sì, i dibattiti televisivi, sì, gli show come quelli di ieri sera. Ricordate, il primo e unico, forse sarà l'ultimo, confronto diretto tra Trump e Biden, 73 milioni di americani incollati davanti allo schermo. Poi però ci sono i manifesti da posizionare nelle città, ci sono le mail che arrivano, ci sono le lettere, quelle cartacee, quelle di una volta, e poi si bussa, si fa il porta a porta. E su questo, secondo le parole di Woodrow Johnston, i repubblicani stanno facendo molto molto bene in Nevada, i democratici un po' meno. Ecco, se prendiamo il Nevada come grande esempio, allora potremmo avere anche una possibile indicazione sulle prossime settimane di campagna elettorale. Invece un'indicazione sui prossimi minuti ci arriva proprio dalla voce dell'attuale presidente statunitense. You're fired. You're fired. You're fired. E l'indicazione è chiara, il tempo è finito, quindi ringraziamenti a voi tutti per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è domani alle 10 col meglio di Nessun Luogo, e poi lunedì alle 16 qui di nuovo con Nessun Luogo Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.